Per chi non mi conosce, sono Flavia Marzano, sono assessora a quella che si chiama Roma Semplice, che qualcuno dice essere un ossimoro, in realtà mi piace molto vederlo più come un obiettivo che non come un ossimoro, e ci si prova. Tra le cose che proviamo a fare è quella per cui oggi voi siete qui e noi anche, ovvero trasparenza e tutto ciò che la trasparenza prevede e include. Nella mia vita precedente, qualcuno di voi lo sa, abbiamo combattuto con tante associazioni proprio per far sì che gli open data e il FOIA e il software libero, tutto ciò che è open, entrasse come norma nella pubblica amministrazione. Con questa pubblica amministrazione abbiamo fatto qualche primo passo, dalla delibera per l'adozione del software libero alla ristrutturazione del portale open data, quindi con nuovi dati aperti, eccetera. L'idea della condivisione della conoscenza che Aaron Schwartz aveva con molta chiarezza lanciato è un'altra delle cose su cui lavoriamo, quindi sono davvero molto contenta che voi abbiate scelto Roma. Mi scuso per la difficoltà che c'è stata per le sale, perché purtroppo così funzionano le cose da noi, a volte c'è bisogno di essere resilienti, e questo è un'altra cosa che vi regalo volentieri, che di solito dico ai miei studenti il primo giorno. È un hashtag che ho inventato, che è RARERI. RA è rassegnazione, mai. RE è resilienza, sempre, ti tocca. RI è ribellatevi anche ogni tanto, che c'è bisogno di fare qualcosa di nuovo e innovativo. Quindi grazie anche per la ribellione che lo stesso Schwartz, nato oggi 31 anni fa, quindi troppo pochi, insomma era veramente giovane, però ha lanciato un bel messaggio, quindi grazie a voi di portarlo avanti. Io non ho altro da dire, se sono domande sono qua volentieri. Grazie. Io ringrazio Flavia Marzano e Roma Semplice per aver accettato l'invito e aver iniziato questo percorso. Volevamo iniziare oggi, che è il compleanno di Aaron, con una sorta di festa di compleanno pensata in maniera molto attenta. Ci abbiamo impiegato molto tempo per arrivare a questa giornata, perché le tematiche affrontate sono sempre state molto, molto complesse e molto difficili, e ci siamo anche posti molto il problema relativamente alla persona di Aaron e a quelle sfumature che avrebbero rischiato di entrare pesantemente nella sua vita. Ci siamo confrontati con la fondazione, ci siamo confrontati con Lisa Rain per capire qual era il modo migliore. Ci ha dato in questo senso, e la ringrazio, carta bianca. Ci ha dato anche oggi un bellissimo messaggio per il lavoro che stiamo facendo e l'incontro di oggi, e mi faceva piacere farlo proprio a Roma, non solo perché è la capitale, ma perché è una delle città che sta prima di tutte in Europa lavorando sulla trasparenza e sul tema dei dati aperti e del common creative in maniera estesa. E quello che ha fatto Aaron credo lo conosciamo praticamente tutti. Quello che vorremmo fare noi è riprendere alcune tematiche, riattualizzarle, e vorremmo, più che lavorare su dei filoni o lavorare su dei concetti, aggregare le persone interessate rispetto ad alcuni temi che ci possono in qualche modo aiutare nei prossimi anni. Uno di questi temi sicuramente è quello della trasparenza, è quello dei diritti, ma c'è un tema che mi sta preoccupando di più, che è il tema del design persuasivo, di tutte quelle forme di fomentazione psicologica che si stanno attuando per tenerci sempre più collegati ai nostri device, tant'è che l'Unione dei Psicologi Americani ha scritto una lettera, che forse avrete visto nei giorni scorsi, in cui attacca pesantemente il modo in cui i social network stanno tentando tutte le strade possibili per indurci a rimanere collegati il più possibile e a farci fare delle operazioni e delle azioni che molto spesso sono ai limiti. Pensiamo al free to play, pensiamo all'uso dei minori nel traffico dei dati, e quello che maggiormente ci sta preoccupando è una deriva di disattenzione verso i diritti di tutti, specie i diritti dei singoli. Ci inciampano in tanti, ci è inciampato addirittura l'Istat qualche settimana fa. Infatti il garante è dovuto intervenire per quanto riguarda l'uso non proprio anonimizzato dei dati, tant'è che rimaneva traccia per sempre di dati sensibili. E come dire, c'è il rischio che insieme al tema del rumore in rete in qualche modo si vada all'estremo opposto, cioè quello di cercare di trovare delle regole che in qualche modo diano la possibilità di controllare quello che c'è. In queste settimane ci siamo posti un altro tema, che è quello di riunire un po' la storia di questi ultimi anni. E io vorrei oggi, in questa giornata, ricordare anche Franco Carlini, che ci ha lasciato anche lui molti anni fa, in un momento in cui stava lavorando moltissimo sui diritti, ha scritto un sacco di cose, si è un po' perso anche su di lui, il suo segnale si sta indebolendo, si stanno chiudendo sempre più, stanno perdendo i siti che avevano raccolto il suo materiale, e allora l'idea della conservazione digitale forse assume un ruolo diverso, quello di mantenere non solo memoria, ma anche di raccogliere alcune delle cose che sono state fatte, e ci piacerebbe con questo gruppo di persone riqualificarle e riutilizzarle. Io vorrei così lasciare direttamente la parola, perché questa è una struttura che stiamo costruendo, non sarà mai una struttura piramidale, sarà una struttura assolutamente aperta con questi accumuli di interesse, e fra i primi accumuli, fra le persone che si sono più interessate a questo, oltre a ringraziarvi della partecipazione, c'è sicuramente Francesco Di Costanzo, che con Pia Socia sta portando avanti un lavoro in questi mesi di costruzione di tavoli, di costruzione di una nuova identità digitale, e intanto lo ringrazio e gli passo la parola, perché anche lui oggi so che dovrà essere velocemente da tutta parte d'Italia. Sì, grazie mille, innanzitutto grazie al Comune di Roma, all'assessore Marzano per l'occasione. Io, appunto, ha detto Maurizio, poi dopo vi devo lasciare per correre da un'altra parte, però sono venuto, come anche a Pisa quando abbiamo fatto un primo incontro all'Internet Festival, molto volentieri, per un semplice motivo. Parto da quello che ha detto l'assessore su RIM, mi pare, ribelliamoci un po'. Noi, questo anche per raccontarvi cos'è Pia Social, un pochino l'abbiamo fatto, nel senso che abbiamo cercato di spingere su alcuni tasti di innovazione che spesso dentro la pubblica amministrazione, ma non solo, quando provavi a parlare di, diciamo, comunicazione digitale, in molti come dire, andavano a prendere il caffè, scappavano, insomma, avevano qualche dubbio, ma soprattutto qualche timore, e noi abbiamo cercato, come dire, di scardinare alcune resistenze, di buttare giù alcuni muri. Io credo che in qualche modo ci siamo riusciti, nel senso che oggi abbiamo una consapevolezza diversa sull'utilizzo del digitale. Non è finita qui, anzi, purtroppo c'è da fare un grandissimo lavoro, soprattutto culturale, e qui credo che il lavoro che possiamo fare con tutti voi sia fondamentale. L'associazione, poi insomma andrete, se volete, a leggervi tutto, a vedere un po' quello che stiamo facendo ormai da tempo, piasocial.info è il sito web, però credo che questo percorso, ripeto, che è soprattutto un grande passaggio culturale, non solo all'interno della PA, ma riguarda i cittadini stessi, riguarda anche il mondo del privato, quindi riguarda un po' tutti noi, si possa fare solo con una comunità, dico io, / community, che poi sono la stessa cosa, perché noi oggi ci incontriamo fisicamente, ma poi ci siamo incontrati in questi giorni in chat, su Facebook, su altri strumenti, grazie anche al lavoro di Maurizio. Però la logica è creare una community che parta da una sensibilizzazione forte, per poi, come dire, anche il lavoro che ha fatto Aaron e che state facendo tutti voi possa portare dei risultati concreti. Noi come PA Social, Maurizio l'ha accennato, però abbiamo, al di là della rete associativa, abbiamo 15 coordinamenti territoriali, tra cui quello del Lazio. Oggi vi porto appunto anche la voce delle tante persone che fanno parte di PA Social Lazio, che si mettono a disposizione sul territorio per darvi una mano, per organizzare iniziative, per fare cose insieme. Se il comune pensa, come dire, che possa essere utile un supporto da parte dell'associazione sia a livello territoriale che a livello nazionale, noi ci siamo. E poi, come ha accennato Maurizio, noi abbiamo aperto dei tavoli tematici nazionali che sono anche in questo caso incontri fisici, come faremo giovedì prossimo qui a Roma, e vi invito tutti, insomma, per chi vuole venire, all'assemblea nazionale dell'associazione. La faremo al Museo Maxi la mattina e il pomeriggio all'Auditorium Parco della Musica. Però anche questo, tornando un attimo indietro, abbiamo voluto scegliere due posti, diciamo, di cultura, seppur diversi, perché crediamo che quella che noi definiamo nuova comunicazione, anche se io vorrei smettere con questo nuova, perché insomma, diciamo, è un po' superato, ma è per intendersi, perché purtroppo, come vi dicevo prima, il passaggio non è così semplice. Ecco, lì faremo, al di là della plenaria della mattina che vi può servire per conoscere proprio tutte le cose che stiamo facendo, nel pomeriggio abbiamo i tavoli tematici aperti a tutti. Tra parentesi, se vi interessa registratevi, trovate su web, insomma, ovunque il link di registrazione. Tra i vari tavoli ce n'è uno sull'educazione al digitale, e credo che questo possa essere fondamentale anche per il lavoro che, insomma, ci vogliamo dare da qui in poi e che vogliamo fare insieme. Quindi questo lo lascio come compito a Maurizio, ma insomma è per tutti voi. Se, insomma, se avete, direi che è un doppio binario, nel senso, se avete voglia di partecipare al tavolo per dare un contributo, ovviamente per noi ogni contributo è fondamentale, e ripeto, i tavoli sono aperti a tutti, quindi non solo agli associati. Poi se vi associate a noi fa piacere, però dico, non sono aperti solo agli associati, ma a noi serve il contributo assolutamente di tutti. E dall'altro lato però sfruttiamo invece, per tutte le iniziative che vogliamo fare per Aaron Swartz, il tavolo in questo senso. Quindi questo lo lascio, ripeto, come compito a Maurizio, che giovedì sarà sicuramente presente. Però insomma, le tematiche sono talmente ampie, le conoscete meglio di me, però io credo che, se ne parlava anche a Pisa, appunto, all'Internet Festival, spesso forse tra di noi, intendo, si danno per scontate, o comunque si pensa che tutti sappiano tutto, tra virgolette, e invece non è così. Quindi noi abbiamo fatto uno sforzo e continuiamo a farlo. Vi dico, l'OCSE ci ha riconosciuto di essere la prima rete a livello internazionale di questo tipo, e quindi questo significa che noi partecipiamo anche a livello internazionale a occasioni di confronto e sviluppo. Però se ci fermiamo, se smettiamo di avere quella voglia di innovare, di correre su questa strada dell'innovazione, poi si rischia di far scomparire temi e cose molto concrete, come fate tutti voi, e si rischia di non raggiungere i risultati. Quindi io vi ringrazio e sono a disposizione su qualunque mezzo, insomma, mi trovate ovunque. E appunto vi dico, se vi fa piacere Pia Social, sentitevela anche vostra e sfruttatela anche per gli obiettivi che ci siamo dati in comune. Grazie. Allora, non abbiamo un particolare ordine di programma, però ho piacere. Cominci tu. Vai. Allora, intanto grazie a Flavia Marzano e a Roma Semplice per aver voluto ospitare questa giornata. Aaron Swartz, probabilmente noi sappiamo tutti chi è, sappiamo che cosa ha fatto, forse i giovani però non sanno bene qual è stato l'impegno che lui ha messo per la libera cultura. Aaron Swartz ha rappresentato la cultura libera e la possibilità di avere accesso a contenuti in maniera libera a partire dall'età di 14 anni, addirittura. Forse voi ricordate che c'è una foto di lui insieme a Larry Lessig presso il campus dell'MIT, lui è piccolo piccolo, cioè, piccolo per modo di dire, perché comunque non era che era basso, però voglio dire è un ragazzino di 14 anni, no? Con Leslie Lessig che lo guarda, è una foto che sembra quasi una foto, dice, ma com'è che Larry Lessig a quel livello guardava Aaron Swartz? Aaron Swartz era semplicemente un genio, era un soggetto che aveva capito che c'era la necessità di proteggere la libera circolazione dei contenuti e delle informazioni in un mondo nascente del web, o quantomeno in un mondo che già stava dimostrando gli aspetti negativi che poi sono apparsi in un secondo momento. La figura di Aaron Swartz si colloca in una realtà storica simile a quella che poteva essere il 68 prima degli anni di piombo. Perché dico questo? Perché Aaron Swartz è vissuto in un periodo dell'internet che oggi non esiste più. Noi dobbiamo essere chiari rispetto a quello che è accaduto. Aaron Swartz si batteva per una libera circolazione di contenuti in un contesto in cui l'importanza era la net neutrality, l'importanza era quella di proteggere l'accesso dei cittadini ai contenuti. Oggi tutte queste battaglie che lui faceva sono battaglie diverse, perché internet ha dimostrato non solamente degli elementi positivi come quello di farci vedere e farci come dire conoscere e poter avere accesso ai contenuti, ma sono emerse delle realtà che all'epoca non sembrava esistessero. Il concetto dei dati, il concetto di un abuso dei dati personali che poi ha connotato anche i social network negli anni successivi, il concetto di fake news, che voglio dire la possiamo vedere in qualsiasi modo, però noi viviamo in una società nella quale oggi è fondamentale capire il valore dell'informazione, come viene veicolata rispetto all'accesso all'informazione. All'epoca di Swartz era importante poter dire: io vedo determinati contenuti, io non devo essere limitato nell'accesso ai contenuti. Oggi dobbiamo domandarci se e quanto sia importante riconoscere una serie di fonti informative, se e quanto sia importante proteggere i nostri dati, se e quanto sia importante quindi vivere in un mondo diverso rispetto a quello di Aaron Swartz. Swartz era un ingenuo, se vogliamo dire la verità, era un giovane che è rimasto colpito dalla sua fragilità, era un ragazzo geniale, era un ragazzo che però, come dire, ha frainteso innanzitutto la forza del gigante americano nel reagire di fronte alle ribellioni. Il caso di Aaron Swartz è sintomatico di qualcosa che non avrebbe dovuto essere fatto, di qualcosa che non sarebbe dovuto accadere. Insomma, lui rischiava 35 anni di galera, perché voi sapete la storia di Swartz, per aver tirato giù un database di informazioni che erano in pubblico dominio. 35 anni di carcere. Perché accadeva questo? Perché negli Stati Uniti, diversamente dalla nostra diciamo esperienza giuridica, non si scherza con le istituzioni, con quello che può accadere. Cioè, che cosa è accaduto? Che Swartz, nella sua ingenuità, è andato a attaccare una banca dati pubblica. Voi sapete che in Italia diciamo noi distinguiamo gli accessi abusivi, no? Quando ci sentite hacking, no? Voi sapete che l'hacking può essere, diciamo, si può fare contro una banca dati pubblica o privata. Non è così importante da noi come viene l'hacking, ma le pene sono molto lievi, per così dire. Negli Stati Uniti non esiste l'hacking privato, cioè se io entro in una banca dati di un soggetto, quello viene coperto dal diritto civile, non c'è il diritto penale. Quindi se io entro in una banca dati privata non è che mi arrestano. Ma se per caso, se per ipotesi tu vai a attaccare un sito pubblico o entri in una banca dati pubblica, l'ordinamento reagisce con una violenza inusitata, che è quello che è stato fatto a Aaron Swartz. Rischiava 35 anni di carcere, il sostituto procuratore non ha voluto, fino al giorno prima della sua morte, non ha voluto in alcun modo arrivare a un compromesso con il legale di Swartz. Lo voleva in carcere perché Swartz aveva violato una banca dati pubblica, che in realtà era già pubblica perché i dati erano in pubblico dominio, ma che rappresentava per la società americana la ribellione contro l'istituzione, che non è concepibile nella mentalità statunitense. Noi parliamo di ribellione, ma provate voi a ribellarvi negli Stati Uniti, provate voi una banalità, provate ad andare all'aeroporto a dire a un pubblico funzionario: guarda che tu stai facendo un abuso di potere. Venite incarcerati dopo un secondo, non avete nemmeno la possibilità di dire: ah, questa è la società americana, una società che ha pro e contro, ma se per caso tu ti ribelli alla società americana succede quello che è successo a Schwarz, cioè una violenza non giustificata da quello che lui aveva fatto, perché lui aveva messo a disposizione, vi ripeto, dei documenti che già erano in pubblico dominio. Ma, e questo riporta un po' anche a quello che è in Europa, erano in pubblico dominio quei documenti, ma non la versione digitalizzata. Questo perché, come voi ben sapete, questo ve lo potrà dire anche l'amico Scialdone, le eccezioni al diritto d'autore sono di stretta interpretazione. Cioè, che cosa vuol dire? Tu puoi anche, come dire, diffondere una banca dati di informazioni in pubblico dominio, ma se per caso tu le digitalizzi, quello non ti copre, il pubblico dominio non ti copre la digitalizzazione. Quindi lui è come dire, è stato ritenuto responsabile di un reato di una banca dati che era in realtà di da informazioni pubbliche, ma siccome quelle informazioni erano state digitalizzate, le norme si applicavano a quei contenuti digitali. Pensate la follia. Ma questo vale anche da noi. Voi sapete che nella riforma del diritto d'autore, poi vado a chiudere, nella riforma del diritto d'autore che si sta discutendo a Bruxelles, non è stata minimamente messa in considerazione la possibilità di avere un'eccezione al diritto d'autore per il prestito online. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi andate in biblioteca potete leggervi il libro, prenderlo e quant'altro, ma i massimalisti del diritto d'autore hanno impedito che si potesse in qualche modo avere il prestito via internet, perché questo avrebbe voluto dire la possibilità di violare il diritto d'autore. Quindi se voi abitate sulle montagne delle Murge e non potete arrivare nella biblioteca della vostra casa, ve la prendete in saccoccia. Perché? Perché le norme sul diritto d'autore, che sono improntate a un principio massimalista di tutela, fanno sì che voi potete andare in biblioteca e prendere un libro, ma non lo potete fare sotto forma di ebook. Le norme sono tali da incarcerare una persona che ha diffuso materiale in pubblico dominio che però era stato digitalizzato, e quindi questo riportava il diritto d'autore di nuovo in auge. E allora qual è il lascito che ci dà Aaron Schwarz? Sicuramente le battaglie che ha fatto, per esempio contro il SOPA, la norma che doveva prevedere la cancellazione dei contenuti attraverso l'autorità, quindi sicuramente una battaglia ideale verso la libertà dei contenuti, l'accesso alle informazioni, la possibilità che ci sia una cultura libera. Viviamo in una realtà diversa oggi e lo dobbiamo dire. Chissà se la figura di Aaron Schwarz sarà tale quando andremo a discutere appunto di libertà dell'informazione rispetto alle fake news, di libertà dell'informazione rispetto alla tutela dei dati personali. Questo forse è la parte più difficile della memoria nei confronti di Aaron Schwarz, cioè potrebbe essere un'idea ingenua quella che lui aveva di avere una libera cultura in un mondo in cui di libero praticamente non c'è nulla. Però per me è fondamentale ricordarlo, perché una persona che ha pagato con la vita la libertà di informazione, la libertà di accesso alle informazioni, portando all'estrema conseguenza i suoi diritti e la volontà di liberare la cultura, è una persona che noi dobbiamo senz'altro ricordare. Grazie. Allora, capo di causa, e quindi grazie ancora per essere venuto. Io direi che Aaron Schwarz è un caduto in guerra. Nel 2009 William Patry, che era uno dei legali di Google, pubblicò un libro che si chiamava Moral Panics and Copyright Wars, e in questo libro ricordava una delle affermazioni di Jack Valenti, che adesso è scomparso, era il presidente dell'Associazione dell'Industria Cinematografica Americana, che aveva definito la guerra alla pirateria come la sua personale guerra al terrorismo. E Aaron Schwarz è morto a causa di una normativa che è stata pensata come se si combattesse il terrorismo. La lezione più grande che ci dà la sua tragedia individuale, il suo atto di disobbedienza civile che poi è stato per lui fatale, e quanto possa essere disastroso per un ordinamento giuridico costruire una normativa sulla base di una comunicazione violenta che altera il valore vero del bene giuridico tutelato. Il diritto d'autore è molto importante. Chi scrive, chi produce contenuti creativi ha assolutamente il diritto di essere protetto. Non ha probabilmente il diritto di essere protetto come chi viene tutelato per il bene della vita o per altri beni personalissimi dell'individuo. Alcune delle proposte più stravaganti sono passate ormai nel dimenticatoio, ma neppure troppi anni fa, non in un posto incivile dal punto di vista giuridico, ma nella civilissima Francia, il Parlamento francese approva una legge che prevedeva la disconnessione da internet in caso di 3 ripetute infrazioni riconosciute del diritto d'autore, cioè si tagliavano fuori le persone dall'accesso ai servizi online dello Stato, della pubblica amministrazione, delle banche, perché magari per 3 volte si era trovati responsabili di aver condiviso un file musicale. Come sia possibile che un Parlamento civile di una nazione giuridicamente evoluta come la Francia sia arrivato ad approvare, peraltro per ben 2 volte, dopo che c'era stata una prima bocciatura da parte della Corte Costituzionale francese, quella normativa, è qualcosa che ci deve far riflettere su quanto i gruppi di potere possano incidere nella formulazione delle norme, non tanto o non solo a livello parlamentare, cioè quando si decide come la norma viene scritta, ma nel creare un contesto in cui quella norma diviene accettabile. Per tante altre cose lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Questo discorso vale per qualsiasi cosa. Può valere per l'immigrazione, come può valere per la prescrizione, come può valere per qualsiasi bene, cioè si può costruire un contesto in cui quasi qualsiasi norma diviene accettabile se la comunicazione che viene data stravolge il bene oggetto della tutela a tal punto da renderlo irriconoscibile. Se con una comunicazione violenta, continua, ripetuta, io riesco a far passare il messaggio che la pirateria sia un furto, sarà più facile per me convincere le persone che la norma che io devo applicare sia una norma molto simile a quella di chi in nottetempo entra nella mia abitazione e mi priva di tutti i beni più cari che io ho e mi lascia senza nulla. Ecco, di fronte a questa immagine, credo che chiunque di voi abbia un sussulto interiore. L'idea di essere privati di quello che ci è più caro ci porta a pensare che ci debba essere una sanzione molto forte per chi compie quel gesto. Se io riesco a convincervi che sono la stessa identica cosa, c'era una pubblicità Progresso o Regresso qualche tempo fa che vi diceva: rubereste mai un'auto? Rubereste mai un libro da una libreria? Rubereste tutte queste cose? E poi vi diceva: scarichereste un film da internet? Come se fosse la stessa cosa, come se appropriarsi dell'auto di un'altra persona fosse la stessa cosa rispetto a scaricare un film da internet. Era nella fase in cui andava molto di moda il peer-to-peer, i software di condivisione dei file. E in questo clima folle io ricordo sempre una lezione, sono ormai veramente tanti anni fa, sono più di 14-15 anni fa, una lezione in un master universitario in cui, parlando della pirateria e delle sanzioni, prima Fulvio Sarzana ci ricordava come l'ordinamento americano sia particolarmente severo dal punto di vista delle sanzioni penali, anche il nostro ordinamento è particolarmente severo ad esempio sulle sanzioni amministrative, e c'era questa battuta fatta da un docente nell'ambito di un master diritto dell'informatica, dove diceva: beh, guardate, se vi arriva il maresciallo della finanza a casa e vi prende l'hard disk con tutti i file che avete condiviso in un circuito peer-to-peer, uno di qualsiasi software, allora ce n'erano tanti che andavano in voga, beh, vi conviene che se avete una finestra aperta gli date una spinta per farlo andare di sotto, perché vi costa di meno le conseguenze di lui che va di sotto e eventualmente muore rispetto a quanto vi costa se prende possesso dell'hard disk e fa il conto di quello che dovete per il numero di file che avete condiviso. Con ci sono degli episodi anche singolari nelle vicende giudiziarie italiane, tra cui persone che sono separate diciamo in maniera anche fittizia per sottrarsi al pagamento di quanto era stato rinvenuto all'interno dell'hard disk domestico, una serie di questioni che fanno sorridere ma che ci ricordano come in una certa fase quelle che sono le guerre del copyright hanno prodotto delle normative disastrose. Purtroppo, e con questo chiudo, non è una stagione che è finita. In realtà, per una pura coincidenza, il 2018 segna il ventennale della normativa statunitense, che è il Digital Millennium Copyright Act, che un po' rappresenta la matrice di questo incattivimento nei confronti dei soggetti che utilizzano le opere protette dal diritto d'autore in maniera illegale su internet. Sono 20 anni da quella normativa. Quella guerra iniziata grosso modo 20 anni fa non si è conclusa. Quello che il Parlamento europeo con l'ultima direttiva che si appresta ad adottare sta per fare è inasprire ulteriormente quel messaggio, cercare di spostare sempre di più l'asticella trasformando sostanzialmente quasi tutti i siti di video sharing o di content sharing in dei publisher, in dei sostanzialmente in delle nuove emittenti. Tutto questo per cercare sempre di più di controllare i contenuti che circolano in rete, sempre di più nell'idea che quello che il digitale ha abilitato, cioè il fatto che le opere possano essere liberamente diffuse e circolare, debba essere in qualche modo riportato all'interno di recinti. È una battaglia in qualche modo che non si riuscirà mai a concludere se l'approccio è questo. Vicende come quelle del povero Aaron Swartz dovrebbero spingerci a pensare a quanto sia ingiusta una normativa così severa, a quali conseguenze possa produrre nella vita delle persone e a quanto sia opportuno in questo momento, in questa fase di transizione molto delicata per l'Unione Europea, provare magari a immaginare un percorso diverso, molto complicato da avviare rispetto a una direttiva ad esempio che ha già superato il primo voto favorevole del Parlamento europeo, ma non è detto che non possa esserci lo spazio per un ulteriore cambiamento. Ecco, questa è la speranza. La speranza è che gli atti di disobbedienza civile come quelli di Aaron Swartz possano servire per il futuro, ma che quegli atti non siano più necessari perché ci sia un cambiamento di mentalità. Grazie. Grazie a Marco Scialdone e nell'occasione vi anticipo che Gino Roncaglia, Rosi Battaglia, Fabio Chiusi, David Quente, Bruno Mastroianni e Vergheno ci hanno mandato del materiale che abbiamo cominciato a mettere dentro nel sito insieme a quello che ci ha mandato Andrea Zanni, che non può essere con noi, ma che ha fatto un grossissimo lavoro, ci ha mandato 5 proposte, le trovate già nel sito disponibili e sono dei momenti di riflessione per il prossimo anno, saranno probabilmente 5 punti su cui noi vorremmo in qualche modo adattarci. Io chiederei adesso ad Antonio Pavolini se ha piacere di fare il suo intervento adesso, che mi sembra ben allineato rispetto a quanto abbiamo sentito con Scialdone poco fa. Io mi metto qua davanti perché sono un po' più libero nei movimenti. Hai detto bene quando dici che mi aggancio al discorso di Marco Scialdone, perché lui ha detto una frase che in tutte le mie rimuginazioni di questi giorni non avevo trovato il modo di mettere insieme, che è la frase chiave almeno della parte dei temi schwarziani che mi interessano, e cioè: è vero che ci sono, come dice anche Fulvio Sarzana, dei nuovi problemi sui diritti digitali che forse all'epoca di Schwartz non erano così in cima all'agenda della discussione. I big data, la privacy, le fake news. Quello che però sta accadendo è che il racconto dominante su internet che si fa, sui media che bene o male ancora dettano l'agenda della discussione, anche quella che poi riverbera sui social network, questo discorso dominante tutti i giorni usa questi nuovi problemi che ci sono e che nessuno nega, proprio per costruire il consenso, il contesto favorevole per rendere accettabile la negazione delle libertà per cui Arno Schwarz ha lottato e poi anche ha pagato con la vita. Per intenderci, oggi sui media non si parla praticamente mai di neutralità della rete. Si parla tanto perché c'è una gran voglia di corsie preferenziali, di vario tipo, umanistico e tecnologico. Sui media oggi non si parla di libero accesso alla conoscenza, anzi fa paura, viene considerato abilitatore delle fake news e quindi poi dei populismi, questo è il passaggio immediato, no? No, non si parla di libero accesso alla conoscenza, si parla di accesso condizionato, che non è solo un modulo tecnico per fare in modo che venga, per esempio, protetto il diritto d'autore, che nessuno nega, per carità. Accesso condizionato perché intermediato, no? C'è questa grande voglia di intermediatori, come se ai vecchi intermediatori non si fossero sostituiti dei nuovi intermediatori che pongono nuovi problemi, mentre si continua a parlare di una fantomatica internet disintermediata che, vi assicuro, se esiste è profondamente marginale, perché Facebook intermedia tutto quello che noi scriviamo e tutto quello che noi vediamo. Non ci sono più i palinsesti, però ci sono gli algoritmi che hanno preso il posto dei palinsesti su Facebook, su Twitter. E scusate se insisto su Facebook e Twitter, ma le statistiche dicono che un italiano su 3 pensa che Facebook sia internet. Negli Stati Uniti molti di meno, e non perché c'è anche Reddit negli Stati Uniti. In Brasile il 60% delle persone pensa che Facebook e internet siano la stessa cosa. È normale, perché in Brasile internet è arrivata tutta insieme con le applicazioni mobili. Il web non è praticamente mai esistito, sono entrati direttamente nell'era delle app. In economia in via di sviluppo, sempre lo stesso studio che ho presentato anche a Pesaro, scusate, non a Pesaro, dove l'ho presentato questo studio? A Orvieto forse. Comunque, la Nigeria è una delle economie più, diciamo così, dinamiche, eppure, e dove naturalmente internet si sta espandendo a grande velocità, come succedeva a noi qualche anno fa. In Nigeria 3 persone su 4 pensano che Facebook e internet siano la stessa cosa. Quindi attenzione, oggi siamo nelle mani di nuovi intermediatori che, ovviamente, esattamente come i vecchi intermediatori, non sono lì per proteggerci dal male. Sono lì giustamente perché sono espressione di un potere privato per fare gli interessi di una piattaforma privata. Portano i nostri occhi su certi contenuti piuttosto che certi altri, in modo che si scateni più engagement, si liberino più dati che loro rivendono agli inserzionisti. Non è un modello poi così diverso dal modello precedente, che spostava i nostri occhi su certi contenuti perché c'era allora il vero e proprio controllo tecnico del canale distributivo. Oggi non c'è più il controllo esclusivo del canale distributivo, ma guarda caso sono riusciti di nuovo a far piombare i nostri occhi sempre sulle stesse cose che decidono i giornali, la radio, la televisione. Di questo discutiamo. Abbiamo passato 24 ore a parlare della foto della Isoardi, questo per fare solo l'ultimo esempio. Allora, le battaglie di Arno Schwarz sono completamente assenti dal dibattito pubblico. Sono molto presenti invece tanti altri problemi che esistono. Peccato che però questi problemi sono un po', lasciatemi dire, a targhe alterne. Quando parliamo di fake news, no? Di bufale, sembra che le bufale nascano in rete, ma la verità è che le bufale, quelle più pericolose, diventano tali quando superano la scala che solo i media tradizionali riescono a far rilanciare. Io faccio sempre l'esempio di Blue Whale, la moda dei ragazzini che si tagliavano i polsi. Questa cosa in Russia, sì, all'inizio era una leggenda metropolitana, nessuno si era fatto male, poi ne parla un giornale russo e qualche ragazzino si fa veramente male. Passa un anno e la vicenda viene ripresa dalle Iene, quando già in Russia si era capito benissimo qual era stato il processo. Sulle ricerche Google, il giorno successivo, i ragazzi che cercano informazione su questa moda aumentano, è facile da Google tirar fuori questo dato. E questa diventa la notizia che fa scalare di nuovo il fenomeno in Italia a un anno di differenza. Ora, di chi è la responsabilità delle fake news in questo caso? Ma ho voluto fare solo un esempio, non voglio citare ancora una volta i quotidiani che uscirono il giorno dopo la strage di Piazza Fontana e che titolarono che era tutto colpa di un anarchico ballerino. Non è questo il tema, non è le fake news sono sempre esistite, il tema è un altro, è che oggi le fake news superano la scala per cui producono dei danni solo quando entrano nell'agenda della discussione, che vi assicuro è sempre quella dei media tradizionali. L'altro tema, la privacy, è un tema a targhe alterne, nel senso che sì, siamo tutti preoccupati, escono continuamente libri sulla privacy, escono dei bellissimi libri fatti da esperti di big data che con grande rigore scientifico ti dimostrano che il voto a favore di Trump è stato causato dall'uso dei big data raccolti con l'aiuto di Facebook, Cambridge Analytica, tutto quello che sappiamo. Però questo, scusate, non credo che da solo spieghi la vittoria di Trump, forse c'è qualche altro motivo per cui Trump ha vinto, no? L'aveva capito Michael Moore, non l'hanno capito tanti altri, o forse non lo volevano capire. Allora, quello che sta succedendo è che la tendenza è quella di raccogliere sempre prove, anche scientifiche, a carico di un solo imputato, che guarda caso è sempre internet. Quando Sherry Turkle scrive un libro che dice cose giuste scientificamente, cioè che l'uso di questi piccoli schermi ci rende più aggressivi, cita tutta una serie di dati scientifici inoppugnabili. Ma vogliamo dire che c'è tanto odio in rete perché abbiamo uno schermo piccolo in mano? È questa la causa? Oppure forse magari chi oggi in rete restituisce tutto questo odio si è nutrito per 30 anni di quello che tutti sappiamo essere, per esempio, la televisione commerciale italiana? Queste sono le domande che dovremmo cominciare a porci per capire che tutte le sacrosante preoccupazioni per i problemi che oggi ci sono, che ha citato prima anche Fulvio, purtroppo sono usate in modo strumentale. E da chi sono usate in modo strumentale per negare la internet libera di Aaron Schwartz? Ragazzi, sono usate dal mondo dei media, che ha un piccolo problema, cioè che gli occhi delle persone si posano su altri luoghi che non sono più quelli che abilitano il loro business. Allora, attenzione, tutti questi temi sono temi pubblici, non sono temi privati. E quindi non esistono, come dire, i vecchi intermediatori buoni e i nuovi intermediatori cattivi. Esistono solo i forti e i deboli. I forti in questo momento sono in lotta tra di loro. I vecchi conglomerati, i vecchi tycoon dei media sono, come dimostra per esempio la vicenda della direttiva del copyright, sono in guerra con i nuovi forti, che sono i nuovi grandi intermediatori. E chi ci rimette? Cioè, dovrebbe essere un tema pubblico, un tema dei cittadini? No, noi lo stiamo lasciando in una guerra che si svolge oltre il visibile e di cui, mi dispiace dirlo, le istituzioni europee, come dire, sono le abilitatrici dirette, sono abilitatori diretti in questo momento di uno scontro che è uno scontro puramente economico e non è una questione pubblica. Noi siamo tagliati fuori e persino i creativi, no? Vengono tirati per la giacchetta dal vecchio, diciamo, distributore a scapito del nuovo distributore e magari, sai, la gran parte dei creativi ancora pensa di essere più protetta nel vecchio mondo rispetto a quello nuovo e non si rende conto che il tema è pubblico. E non è un tema privato, non è un tema di sopravvivenza di una industria creativa che funziona in un certo modo rispetto a un'altra. Allora, per tornare ad Aaron Schwartz, lui non solo conduceva delle battaglie a parole, no? Non era un guru che poi andava dietro un palco e imbracciava un microfono, come drammaticamente succede anche troppo spesso tra di noi, no? Di gente che poi però di fatto fa veramente poco. No, Aaron Schwartz era uno che scriveva le specifiche del protocollo Really Simple Syndication, che oggi è RSS, che oggi sembra preistoria, ma era ciò che abilitava l'aggregazione laica di tutte le fonti di informazione. Quindi era la negazione tecnica di quegli spazi chiusi, di quei circoli, di quei wall garden in cui siamo, come la ruota del criceto, stiamo correndo tutti i giorni. L'RSS dobbiamo ringraziare l'RSS se esiste il podcast. Poi è vero che l'ha scritto il codice Dave Weiner, ma se non fosse stato per lui, che ideologicamente ha sostenuto l'RSS, e poi anche per Adam Curry, che gli ha dato una grossa spinta di marketing, oggi non avremmo il podcasting, che rimane una specie di isola di libertà su internet, libertà laica, così come lui ha scritto le specifiche di Creative Commons. Che cosa significa scrivere, contribuire quantomeno, perché c'è dietro soprattutto Lessig, lo sappiamo, le specifiche di Creative Commons? Significa non negare il diritto d'autore, ma scrivere un nuovo, dare un'altra opportunità di remunerare giustamente il valore di un'opera d'ingegno, senza che le regole vengano fissate da chi distribuisce quel contenuto in esclusiva, perché è questo il diritto d'autore vecchio che nessuno vuole, diciamo così, riformare. Sono 20 anni che io assisto a tavoli dove si pensa di riformare il diritto d'autore, ma non è una battaglia per i creativi, non è una battaglia per cercare nuovi modelli di business, è una battaglia di sopravvivenza da un lato e di ideologia dall'altro. Un'ideologia a volte anche un po' autoreferenziale, temo di doverlo dire, basta vedere insomma che noi che siamo qua, siamo tutte persone, parliamo tra di noi, bene o male queste cose le sappiamo, però questo dibattito dovrebbe andare altrove, e non va altrove perché? Perché si tratta di, cioè l'industria che dovrebbe far andare questo dibattito altrove non ha interesse affinché questi temi trovino il giusto spazio. Per chiudere, per farvi capire quanto è potente questo racconto dominante, strumentale, vi dico solo che io sono reduce da un paio di festival, a quello di Pesaro sul giornalismo culturale. Praticamente tutte le persone relatori che ho trovato sul palco a un certo punto hanno citato questo libro di Baricco, The Game. Ecco, il libro di Baricco è scritto benissimo, io l'ho letto, e poi lui è un genio, cioè vai a vedere la presentazione del suo libro, diventa uno show. L'ho visto a Pisa, no? C'era anche Claudio. E però qual è il problema? Che anche quello è un libro che più o meno tutte le celebrità oggi sentono l'esigenza di scrivere un libro su internet. Lo schema è questo: individua un problema presente nella società, che puntualmente è quello che sta più a cuore a me, autore. Baricco ha il problema dell'intermediatore culturale, che non esiste più, internet ha messo in discussione, dice: allora, il problema di oggi, di tutto, Trump, è che non ci sono gli intermediatori culturali, cioè non ci sono più io. Questo dice Baricco nel libro. Qual è, di chi è la colpa? Poi subito, no? Il nostro modo di ragionare, problema, colpa, no? Tipico. Di chi è la colpa? E si comincia a raccogliere scientificamente una serie di cose, sempre a carico di quell'imputato che tu vuoi far apparire colpevole fino all'inizio, che magari per certi versi ha delle colpe, diciamo, nel senso, per primi sappiamo che la tecnologia non è mai neutra, però diciamo che non si può spiegare tutto col tecnodeterminismo. Cosa fa Baricco? Baricco dice che l'umanismo è stato distrutto da un gruppo di ingegneri bianchi post-68ini, senza nessuna cultura umanistica, che hanno dato in mano alle persone delle cose che rendono l'accesso alle informazioni un giocattolo che ci fa perdere con questa continua distrazione, perché è un giocattolo gradevole, ci fa perdere la capacità di compiere un investimento emotivo e razionale in un qualsiasi racconto strutturato. Quindi fondamentalmente quel gioco, The Game, è ciò che ci impedisce di comprendere la complessità. Allora, intanto questi ingegneri che creavano i telefonini, cioè evidentemente per lui dovevano fermarsi al Nokia 3310, va bene, comunque scherzi a parte, ma questi che hanno guidato la rivoluzione digitale, secondo lui, sono quelli che hanno creato internet? Steve Jobs è quello che ha guidato internet? Steve Jobs è quello che ha fatto soldi meritatamente, perché era un genio, promettendo alle major di riuscire ad addomesticare internet, la internet che voleva Aaron Schwartz. Questo era il business di Steve Jobs: addomesticare qualcosa che in quel momento aveva dato uno spazio di libertà. E la colpa quindi del problema che non siamo più in grado di fare un ragionamento strutturato di questa videogamizzazione di tutto sarebbe di chi ha inventato questi device. Ragazzi, non è un ragionamento molto più complicato di quello di Aldo Cazzullo, che intitola il suo libro Metti via quel cellulare. e soprattutto non è un ragionamento molto più nuovo del romanzo di Huxley, Il mondo nuovo, che fondamentalmente descrive proprio questa distopia. Non c'è più una dittatura che ti dice quello che devi fare, c'è un mondo di piccole soddisfazioni effimere che ti impedisce poi di ragionare su quelli che sono i problemi veri. Questo era da 1984 ad Huxley, quindi da Orwell ad Huxley. Arriva Baricco, scrive questa cosa con la sua prosa meravigliosa e lo presenta in dei veri e propri show che sono la presentazione del libro, e tutto il mondo della cultura che conta, che io ho conosciuto, esulta e porta questo libro, manco fosse Il libretto rosso di Mao. Lo sapete perché lo fanno? Lo fanno perché vedono che questa cosa viene detta da uno di loro, è un tema identitario, non è più un tema nel merito. Perché tanto Liano Schwartz, i Lessig, i Weinberger, i Dot Searls, cioè tutta questa gente, creatori del Cloutier Manifesto, che hanno detto le cose giuste, alcune le hanno completamente cannate, sono completamente fuori, cioè non fanno parte del talk about quotidiano. Quindi oggi tutta la questione del racconto dominante è negare l'esistenza stessa della internet per cui Schwartz lottava e promuovere i diritti digitali come se fossero il diritto di difenderci dalla transizione digitale per poter abilitare business che devono sopravvivere, non che devono crescere. E poi la cosa buffa è che sono gli stessi che dicono che il futuro è l'industria 4.0, cioè sono gli stessi quelli che combattono queste battaglie. Poi scoprono che è così popolare questo ragionamento che, lo dico, ci arriva persino il loro social media manager, ci è arrivato persino il social media manager di Calenda a dire che i videogiochi sono la vera causa del male della nostra epoca. Allora, se sono queste le persone a cui dobbiamo fare, le persone guida che ci dicono come uscire dalla crisi di senso, di significato, dello stare insieme, della militanza, tutto quello che volete, è un grosso problema. Io non penso che sia sufficiente per risolvere questo problema portare il pensiero di Arno Schwartz nelle scuole, però è un punto di partenza, e prima o poi ci sveglieremo tutti da questa vera grande arma di distruzione di massa che è questo racconto dominante, e spero che troveremo il modo, diciamo nell'arco della nostra lifespan, di vedere una luce in fondo a questo tunnel di buio su a che cosa serve internet in cui siamo finiti. Grazie. Grazie. Grazie Pavolini. Carlo Infante. Andiamo veloci anche perché alle 6:30 so che si deve chiudere qua, credo. Sì, però poi abbiamo dei nel podcast Carlo Infante. Intervento di Antonio splendido, un po' lungo, ma veramente ragazzi. Io sono uno che non parla tanto, forse tu ancora non hai capito, io sono un combinatorio. E quanto sarebbe interessante in questo tipo di contesti, quando abbiamo questo tipo di intelligenza, e carambolarci molto di più, non solo beccarsi gli ottimi pipponi, no? No, ma io ti sono grato, Sherry Turkle, veramente 21 anni fa, quel libro, La vita dentro lo schermo, ha fatto capire tante cose a tanti. Aveva letto Foucault. Allora, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di cultura? Non pensiamo al nostro amico di prima, alla cultura, vai al Maxi, vai all'Auditore. No, la cultura non è quella roba lì. La cultura è una parola latina che molti non sanno più declinare, perché esisteva una volta il participio futuro, oggi non esiste più. E significa ciò che diviene. Noi in questi ultimi 3 secoli ci siamo adagiati sul fatto che la cultura sia un insieme di convenzioni che si devono confermare, conservare e magari delle volte, se va bene, ridefinire. La cultura è altro, e il digitale ce lo sta facendo capire esattamente, ce lo sta facendo capire, e ci porta verso quello che saranno le grandi scommesse antropologiche per la prossima generazione: meccanica quantistica, no, inner space, non lo so come vogliamo definirle, no? Ma sicuramente tutto il sistema in cui siamo cresciuti è in caduta libera. È evidente che non c'è più un modello economico efficace, blockchain, no? Ok, tutta questa roba qua va veramente rilanciata con un'intelligenza che oggi non dico non ci sia, la vedo qui, c'è un bel po' di intelligenza capace di, ma non abbiamo le condizioni per attuarla. Questo è un problema di fondo. Quando parliamo degli hacker, no? abbiamo visto tutti Matrix e ci rendiamo conto, a proposito di distopia, parola che amo moltissimo, e sapete perché questo serve molto al ragionamento che sto per farvi, ma lo chiudo 20 in due minuti, è che in fondo tutto quello che riguarda il futuro è la capacità di misurarsi con l'incognito, con l'imprevisto, con il non possibile, con l'impossibile, e devi attivare al tuo interno degli anticorpi, quella che secondo me è l'intelligenza migliore, quella che ti mette alla prova in condizioni di difficoltà. La distopia è questa. Molti di noi sono cresciuti dentro la culla degli utopi, è chiaro che c'è tutto un mondo, no? Hai citato Calenda, no? Gli antiscampoli di quel mondo lì, che è chiaro che non ce la fanno. E purtroppo stanno lasciando e hanno generato, come il Moore che tu prima hai evocato, non è ottimo, non è poi così bello, però ci sono delle intuizioni fenomenali, ha generato proprio questa sorta di inerzia vandeana da Trump ai Salvini e tutto il resto. È un problema enorme, ma torniamo al punto, per cercare anche di convogliare, carambolarci in quest'ultima mezz'ora, 40 minuti, per poterci scambiare, no? Per rifletterci su alcuni aspetti. È chiaro, tutto quello che riguarda il digitale ha fatto saltare la mediazione, la disintermediazione è uno dei concetti aurei che ha dato veramente una scossa elettrica a tutti, fortissima, eh? All'interno della logica bloccata dei mass media, il mondo web 2.0 ha dato veramente una volata alla specie. E si è allargato veramente un fronte di proiezione incredibile, di una potenzialità veramente straordinaria. Io quella cosa lì non lo so che ho cavalcato, ma sono di quelli che l'ha generata. Negli anni 90, nel 96, 97, a Torino facciamo il primo blog, e non lo chiamiamo così. Cioè, ci sono create delle condizioni, qui arriviamo anche alla figura di Aaron, di chi stiamo parlando, di un civic hacking, cioè di una capacità di craccare civilmente all'interno delle città attraverso delle azioni pubbliche che una volta si chiamavano happening, attraverso altre forme, utilizzando il web e ibridandolo, mettendolo in stretta relazione con il territorio. Questa è la cosa che è interessante. Qui non si tratta di giocare una partita esclusivamente all'interno delle reti, perché lì la partita è veramente grossa, no? Cioè soggetti come gli Amazon, i Google e i Facebook sono talmente grandi e pervasivi, perché questa grandezza non è solo verticale, non è una questione proprio di massa critica, è pervasiva, crea implicitamente, incondizionatamente della sorta di automatic thinking, cioè un pensiero automatico e indotto che produce veramente la gravità del problema. Non è solo il mondo che fa pressione, quel mondo lì che fa pressione, è tantissima gente che abbassa la soglia, non dico di coscienza critica, di consapevolezza tout court. Questo è il punto. Innalzare il livello di performance dei cittadini è la questione. E non riguarda solo difendersi, non è una questione di arroccamento solo sui diritti. Certo, ci vuole, ma diventa poi una stramba paranoia morale. No? Il punto non è rivendicare diritti, è agire. Dimostrare che il sistema è obsoleto, creando veramente nuove soluzioni, ulteriori mosse in avanti, scarti al lato, mosse del cavallo. E su questo penso ci sia moltissimo da lavorare. Mi fermo qua perché avrei moltissimo da dire, ma siamo ancora in tanti e vorrei, magari si può trovare un momento per scambiarci qualche opinione in modo più serrato. Allora, direi Oriana, puoi uscire tu? Esci tu volontaria? Allora, Oriana esce volontaria insieme a Salvatore Iaconesi. Esce volontaria, giusto? Okay, grazie. Quindi uscire tu? Siamo pari a distorere? Fai. Allora, in questa selezione ho tirato fuori dopo, però, no. Io quando stavo venendo, tra l'altro in mezzo a un traffico meraviglioso qui, mi stavo chiedendo sotto quale forma avremmo potuto fare il nostro piccolo intervento, no? Perché chi ci conosce sa che abbiamo molte vesti, no? Siamo in un centro di ricerca, siamo al tavolo delle fake news europee, siamo degli artisti, cuciniamo molto bene, quindi diciamo, mi stavo chiedendo, diciamo, da quale punto di vista, diciamo, sarebbe stato più importante, no? Diciamo, fare un intervento oggi, e mi sono risposto in modo molto semplice, dicendomi che il più importante punto di vista che avrei potuto rappresentare adesso è quello personale. A me la cultura aperta, in un certo senso, mi ha salvato la vita, no? Perché, quindi, chi sa, quindi chi mi conosce, sa, diciamo, come, diciamo, cosa mi ha spinto a reagire al mio cancro al cervello quando mi è venuto, no? Perché ho reagito in questo modo, no? E quindi l'ispirazione a quello che mi è venuto da fare quando mi sono ammalato al cancro potrebbe essere venuta tanto da Basaglia quanto da Aaron Swartz, no? Perché c'è, diciamo, un filo che unisce, diciamo, queste dimensioni, no? C'è un filo molto importante, no? Ecco, oggi stiamo vedendo il libro di Rodotà, che si chiedeva cos'è un corpo, no? Ok? Ecco, quando, diciamo, tutte queste dimensioni nella digitalità, no? Nel nostro mondo, diciamo, che a tutti gli effetti sta diventando, forse è già diventato, un mondo digitale, no? Quindi in cui la digitalità ha una presenza fondamentale, e quindi quando tutte queste dimensioni si uniscono, no? Cos'è un corpo, ok? Come si chiedeva Rodotà all'epoca, no? Poi, insomma, ha continuato a chiederselo, no? Prima se lo chiedeva in termini biopolitici, no? Poi costituzionali, biopolitici, diciamo, della legge, tutta una serie di dimensioni. Poi, diciamo, se l'è continuato a chiedere quando è entrato, insomma, è diventato sostanziale, insomma, la presenza della digitalità nella nostra vita, no? Ecco, quando si uniscono tutte queste dimensioni succede una cosa incredibile per me, no? E non conosco modo migliore di raccontare questa cosa se non citando una cosa che mi trovo ultimamente a citare, diciamo, costantemente, ed è la meravigliosa definizione di cultura che dava il filosofo Wilhelm Flusser, no? Nelle sue lezioni di design, no? Nelle sue lezioni di design, un libricino piccolino così, a un certo punto dà una definizione di cultura che è molto semplice, perché dice: la cultura è l'insieme delle cose che le persone fanno e usano, no? Proprio molto sintetica, io la trovo meravigliosa. Beh, l'insieme delle cose che noi, proprio la totalità delle cose che noi facciamo e usiamo, dallo stare su Facebook fino al passeggiare per strada, oggi genera dati che sono soggetti a computazione, no? Se sto su Facebook questo è evidente, se cammino per strada è un po' meno, però in realtà è lo stesso, ci sono le telecamere, il cellulare in tasca, tutta una serie di cose, no? Quindi, diciamo, l'unica cosa vera è che la totalità, quindi anche quando dormo, no? Quando dormo, la mia assenza da Facebook è un dato, ok? Quindi l'unica cosa vera è che questa, diciamo, è una equivalenza, no? Quindi la totalità delle cose che noi facciamo e usiamo, quindi la nostra cultura, genera dati che sono soggetti a computazione, no? E questo, diciamo, è una notizia rivelatrice, no? Quindi perché ci sposta, no? Ci sposta il punto di vista, no? E ci fa presagire come parlare di dati, di computazione, ecco, facendo il ponte con Aaron, anche di contenuti e della loro accessibilità, usabilità, diciamo, ci definisce esistenzialmente, no? Quindi questa è una discussione che non è più tecnica, no? Ma è esistenziale, no? Quindi possiamo e dobbiamo affrontarla come società in modo esistenziale, ok? Tanto è vero che io lo dico male, insomma, a me ha salvato la vita, quindi mi ha reso chi sono adesso, no? Quindi questa intuizione del fatto che ammalarsi, no, poteva essere una cosa differente, no, da quello che intendiamo di solito, e i dati sono stati un elemento centrale, quindi la possibilità di avere i miei dati e gestirli e collegarli al mio corpo e portarli con me e aprirci un dialogo sociale in tutta la società, quindi è stata una cosa che a me, diciamo, io sento che mi ha salvato la vita, no? E che mi ha reso chi sono io. Purtroppo, se a me ha salvato la vita, ad Aaron l'hanno ammazzato. Quindi questo, diciamo, ecco, è un ulteriore elemento, mi commuovo anche un po', è un ulteriore elemento che ci porta a considerare, cioè, quindi sulla necessità di abbracciare una conversazione esistenziale su questi temi, ok? Quindi questo è quello che volevo dirvi, insomma, diciamo, non mi dilungo. Non so, è difficile, scusate, però ecco, questo sì, no, non è un problema, questo non è un problema, questa è una cosa bella, quella che stiamo dicendo, che poi abbia dei risultati di morte e di vita fa parte entrambe della vita, ok? Quindi il fatto di prendere atto e coscienza di questa cosa è fondamentale, quindi se decidiamo di non parlare di questo, di parlare ancora di questa persona, non è per osannare, ma è per l'attualità di un fatto che ci riguarda ancora assolutamente tutti e in questi termini, non solo le cose che facciamo e usiamo, addirittura a proposito di quello che ricordavi di Stefano Rodotà, i nostri corpi producono dati, quindi questo livello effettivamente anche dal 2009 ad oggi stiamo continuando a vedere una progressione di questi fatti, di queste evoluzioni. Io volevo ricordare solo una cosa per chiudere. In questo momento ci è stato anche ricordato che ciò che vediamo attraverso i social network viene da molti inteso o frainteso come internet, dove internet, e questo è un discorso che sta ritornando tanto in questi giorni e in contesti differenti, dove internet è di fatto nella sua architettura un'architettura pensata per connettere, quando abbiamo la mediazione di questi nuovi accessi, la struttura è pensata fondamentalmente per classificare e quindi dividere in classi, addirittura in modo opaco. Non sappiamo di essere classi, ok, in questa cosa. Sto rubando, se vi va di guardare, un articolo che ha scritto Sal ieri sera, che si chiama La scienza dopo la terza guerra mondiale, sta su Medium, se vi va dateci un occhio, e questo è interessantissimo. Volevo solo chiudere su questo passaggio: veniamo classificati, quindi non più una struttura per connettere, e ricordiamocelo, pensata anche per un mondo post nucleare dove persone sparse nel pianeta avessero la possibilità di sopravvivere, o anche solo a livello esistenziale di poter dire ciao a quei due o tre esseri umani che erano rimasti vivi. Stiamo parlando anche di questo tipo di struttura, benché fatta magari in un alveo militare, però stiamo parlando di una cosa nata addirittura proprio per esistenzialmente, ancora una volta, oltre che organizzativamente o come servizio, dare la possibilità di sopravvivenza agli esseri umani, un essere isolato che sa che da qualche altra parte del mondo esiste qualche cosa di vivo in questo pianeta. In questo passaggio, quando la struttura, l'architettura di questa struttura non è più un'architettura che connette ma divide per classi, addirittura lo fa in modo opaco, è qui che secondo me si può aprire un nuovo discorso, ancora diverso, che non riguarda nemmeno più solo il copyright, ma sempre l'accesso alla conoscenza, addirittura alla conoscenza di poter appartenere a quella classe. Il problema che ci poniamo oggi è come poterci riconnettere, e quindi nel fatto che adesso l'opacità di questa classificazione è la cosa che poi ci porta a tantissimi fenomeni come quelli che ci vediamo intorno, dalle filter bubble a fenomeni come quelli della politica. Qui secondo me si apre un modo nuovo e interessantissimo di poter parlare oggi di accesso alla conoscenza come il crinale dove avremo un modello di società fatta per dividerci o un modello di società fatta con la speranza di connetterci. Non è detto che vada male, però dobbiamo riuscire a guardare in modo contemporaneo questi fenomeni. Parole per chiarire bene, perché il Pavolini mi ha dato del fascista, quindi, quindi io voglio un attimo fargli capire bene. No, volevo solo dire questa cosa: quando io ho fatto riferimento a privacy e quegli altri temi, non era per dire che in realtà, no, perché voglio chiarire bene il discorso. Allora, all'epoca di Schwarz noi avevamo delle, diciamo, delle idee su quello che stava accadendo, cioè c'erano i buoni e i cattivi, nel senso Schwarz ha fatto il SOPA, la battaglia sul SOPA, perché c'erano dei buoni e c'erano dei cattivi. I cattivi erano le grandi associazioni del titolare, di titolari del diritto d'autore. I buoni erano rappresentati anche da Google, perché a quell'epoca Google sosteneva Electronic Frontier Foundation, insomma c'era una battaglia in cui si sapeva chiaramente chi erano i buoni e chi erano i cattivi e si sapeva da che parte stare. La mia domanda che faccio a tutti voi: come si collocherebbe oggi Arno Schwarz in un contesto in cui, a quel contesto di buoni e cattivi legato all'accesso alla conoscenza, legato alla necessità di consentire l'accesso, si contrappone oggi una società, diciamo, digitale in cui questi buoni e cattivi in quella forma lì non esistono più? Perché dopo il SOPA la figura di Google e la forza, la potenza di queste realtà è sinonimo oggi di cattivi, non più di buoni, da un certo punto di vista. E oggi noi siamo qui a dire che Google, che Facebook hanno fatto delle cose con i dati che non rappresentano più la figura dell'accesso ai contenuti liberi, ma un utilizzo spregiudicato dei nostri dati, delle informazioni, per orientarci in un certo modo. Allora, la domanda che io mi pongo oggi è: ragazzi, nel 2000, quando il povero non c'era Instagram in questa forma, Trump era uno che evadeva le tasse, non era un presidente degli Stati Uniti, diamoci la verità. Ha voglia di dire che i social network, Bannon è venuto a parlare a Roma, io l'ho sentito, ho sentito quello che lui ha detto, ora sarà stato giusto o sbagliato, lui ha detto: quando noi abbiamo cominciato la campagna elettorale non avevamo un partito dietro, non avevamo niente, diversamente da quello che avevano i democratici. Bannon ha detto: noi abbiamo preso i dati dei social network e abbiamo cominciato a fare campagna elettorale dicendo agli elettori quello che loro ridicevano su Facebook. Facevamo campagna, andavamo in una contea, nella contea erano tutti bianchi, parlavamo ai bianchi, nella contea vicina erano tutti neri, parlavamo ai neri, rispetto a quello che loro dicevano all'interno dei social network. E questo all'epoca di Schwarz non c'era, queste realtà non esistevano. Quando io parlo di fake news non è che dico, è vero che il, guardate quello che è successo oggi, no? Il video di Casalino. Allora, signori, voi avete capito quello che è successo? Spiegatemelo, perché alcuni media hanno detto che lui ha detto che sono, gli danno fastidio i down e quant'altro. Esce giustamente il Movimento 5 Stelle e dice: non avete capito, quella è una cosa teatrale. Ribatte Repubblica: ma no, l'ha detto in un contesto pubblico. Dove cazzo è la verità? Non lo sappiamo più, non esiste più la verità. La verità fondamentale è che la verità non c'è più, non è più. All'epoca di Schwarz lui sapeva da che parte stare, noi sapevamo da che parte stare. Oggi, ma noi lo sappiamo da che parte stare? Voi sapete se per caso se quella era una cosa teatrale o no? Sapreste dire con precisione se quello veramente era una cosa teatrale o l'ha detto veramente? Ma non è più importante, perché c'è una parte della società che crederà che lui l'ha detto e c'è un'altra parte della società che crederà che lui non l'ha detto. Allora la domanda che noi dobbiamo porci è: dove si sarebbe posto Schwarz in questo contesto? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre, perché se noi rimaniamo rigidi sulle idee di Schwarz del 2011 non capiamo come sta andando la società, non cambiamo l'importanza. Tu dicevi prima dei media che influenzano, ma signori miei, Munafò ha fatto un articolo sull'Espresso bellissimo in cui ha detto: i post di Di Maio, soprattutto quello sui rimborsi, sono stati visti da 10 milioni di persone, confermati poi dallo staff di Di Maio. 10 milioni di persone. Quale testata è in grado di raggiungere quel tipo di uditorio? Noi dobbiamo confrontarci anche con questo, Antonio. La comunicazione oggi è profondamente cambiata, non è più come era all'epoca di Schwarz. È cambiato il sistema e noi dobbiamo renderci conto che se il sistema cambia dobbiamo domandarci anche noi come metterci. Questo è il problema. Quale parte di no quale parte di i problemi nuovi ci sono e come non è chiara? Perché cioè adesso io volevo dire i problemi nuovi ci sono e come. Io stavo parlando del modo in cui vengono strumentalizzati per raccontare un altro pezzo della storia. Credo che anche quello che hai detto tu sia sacrosanto, cioè come al solito Fulvio, cioè, poi anche i fascisti dicono cose giuste ogni tanto. E, però adesso vorrei far parlare anche altre persone che secondo me tra un po' ci poi io parlava di media e io a favore del podcast Francesca De Benedetti. Allora, non sono qui per prendermi le scudisciate a nome del mainstream, anzi, come outsider da questo punto di vista. Allora, diciamo che c'è un io ho trovato appassionante il discorso di Antonio e mi ha toccata particolarmente anche perché penso che ci fosse nel suo discorso un'esigenza che sento anch'io, che è quella di aprire questo tipo di dibattiti alla società civile nel senso ampio. Questo non era l'esordio che pensavo per il mio intervento, però dopo due ore che siamo qui penso che il primo, diciamo, la questione inossidabile dalla quale si deve partire è che ricordare Aaron Schwarz non significa incontrarsi tra addetti al digitale, esperti di digitale per parlarsi addosso. Secondo me quando si parla di Schwarz bisogna ricordarsi qual era il cuore del suo pensiero, cioè che i diritti digitali sono i diritti, e quindi se non partiamo da questo presupposto rimarremo in 20-30 a parlarne. Secondo me possiamo dire le cose più interessanti del mondo, ma rimarranno un po' fini a se stesse. Comunque, c'è un pensiero che va molto di moda nelle redazioni oggi, che è quello, il leitmotiv del trovare la storia positiva. Addirittura ci sono degli inserti che nascono con l'obiettivo di raccogliere buone notizie. Allora, la storia di Aaron è sicuramente una storia spartiacque, lo è stata per me, lo è stata per tanti. La si può definire una storia positiva? Non direi, il finale perlomeno non lo è. Parliamo di un ragazzo giovanissimo che viene quasi perseguitato dai procuratori, che gli minacciano di dover pagare risarcimenti milionari, si parlava di 4 milioni, pene decennali. Parliamo di una storia che finisce, lo sappiamo, con un suicidio. Eppure questa storia è riuscita a mobilitare tantissime persone e secondo me è riuscita anche a incrinare il racconto collettivo. Il giudizio di Antonio era molto critico e non si può dire che non sia anche condivisibile, però secondo me con la storia di Aaron Schwarz anche sui media qualcosa si rompe, è come se ci fosse una visione del mondo che non funziona più. E vi voglio leggere due righe, vi voglio leggere come hanno raccontato la morte di Aaron Schwarz un giornale mainstream e come l'ha raccontato una sociologa dei media americana, Dana Boyd, che forse molti di voi conoscono. E, allora, il giornale mainstream, che non nominerò, la racconta così: parliamo di un morto suicida come un divo del rock e come tanti, troppi smanettoni depressi come lui, entusiasti delle macchine, con la testa nelle nuvole, nei mille cloud che custodiscono i nostri dati e le nostre vite. Insomma, parliamo, secondo la stampa, di un caso che riguarda una nicchia di persone lontane. Beh, no. Secondo i giornali. Secondo Repubblica. che poi successivamente ogni anno ha ricordato allo Schwarz con articoli pieni di dettagli, ma all'epoca lo descrisse così, quindi come membro di una nicchia di persone, con la testa tra le nuvole e le mani appiccicate alla tastiera. Dana Boyd invece dice, come negli altri casi giudiziari contro gli hacker, quello contro Aaron non riguarda semplicemente la possibilità della tecnologia di fornire nuovi strumenti alle persone per agire in modo indipendente e rafforzare la democrazia. Non è neppure una questione di giustizia o di sicurezza nazionale, riguarda una battaglia più ampia, sistemica, e cioè riguarda il potere. Allora, secondo me questo è il punto. Io ho scritto su Facebook che sarei venuta con molto piacere qui, che per me era una questione di testa e anche di cuore, qualcuno ha pensato al gossip. E per me è una questione di cuore, nel senso che io sì, ho studiato i media, ho studiato semiotica. In questa platea ci sono anche persone come me che hanno fatto quegli studi, mi interessavo di politiche europee. Quando ho letto la storia di Aaron Schwarz, qualcosa mi ha toccato. Io ho capito che, come lui scriveva, l'informazione è potere, la tecnologia è potere. Allora, quello che il vecchio mondo dei media, ci raccontava come un feticcio, come un mondo a parte, come qualcosa che riguardava una nicchia, era in realtà un punto nevralgico della nostra società. Ora, la procuratrice del Massachusetts, Carmen Ortiz, che perseguitò, tra virgolette, Schwarz, diceva bisogna punire il ragazzo perché rubare è rubare. E nella mente di Schwarz lui stava liberando la conoscenza. E allora, così come rubare è rubare, sapere è sapere, il diritto al sapere è il diritto al sapere in qualsiasi contesto e con qualsiasi modalità tecnologica la approcciamo. E quindi... secondo me, anche se quella di Aaron Schwarz non è una storia con un happy end, è però una storia che ha un enorme potere nello spingere le persone, i ragazzi, a chiedere riscatto in qualche modo. Lo sappiamo la repressione dei governi come, in quali direzioni porta. Abbiamo visto per esempio quello che è successo in Italia con il G8 di Genova, c'è stata una grande repressione, ci sono stati documentari, testate giornalistiche che ne hanno parlato, però il movimento e l'attivismo sono di fatto morti dopo quell'episodio. Ma abbiamo visto anche quello che è successo col caso di Stefano Cucchi, sembrerà un parallelismo indebito il mio, ma quello che voglio dire è che lì si trattava di una storia ingiusta, si trattava di una storia di una singola persona e di una storia finita male. E però quanti ragazzi c'erano in quei cinema a vedere quel film? Quale massa critica sono riusciti a portare perché la verità venisse a galla? Allora, secondo me l'obiettivo che ci dovremmo prefiggere oggi qui è innanzitutto quello di raccontare questa storia. Quando ho conosciuto Maurizio, perché appunto ero curiosa di sapere cosa stava organizzando, lui mi ha detto giustamente, quella di Aaron Schwarz è la storia di una persona, noi non vogliamo fermarci alla storia di una persona. Però è anche vero che la storia di Aaron Schwarz ha un potere anche narrativo. Allora io mi chiedo, in una città come Roma, dove ci sono realtà come quelle, non so, del Cinema America, di tanti ragazzi che fanno attività, che si pongono domande, ma perché per esempio non proiettare Internet Homeboy con l'aiuto di questi ragazzi? Perché non proiettarlo a Trastevere? Perché non coinvolgere le scuole? Perché non aprire insomma il dibattito? Internet Homeboy è un film documentario che racconta la storia di Aaron Schwarz in un modo assolutamente divulgativo e che tocca, diciamo, le corde di chiunque lo guardi, credo. Tornando per concludere a quello che diceva Antonio, a me è capitato di intervistare Lawrence Lessig, era il 2015, e lui mi disse che in realtà secondo lui le battaglie di Aaron Schwarz avevano portato a un progresso, che le cose andavano meglio. Mi è capitato anche di parlare con Peter Saber, che è colui insomma che guida il movimento dell'open access dalle aule dell'Università di Harvard. Anche lui diceva sì, persino l'Unione Europea sta facendo qualcosa per l'open access. Eppure siamo qui a parlare nell'epoca in cui Trump è riuscito di nuovo a minare i progressi fatti in termini di net neutrality, neutralità della rete, nei giorni in cui discutiamo di un'Unione Europea che riguardo al copyright si è mossa in modi secondo tanti dubbi, e siamo qui a parlare in un'epoca in cui, come diceva Antonio, è vero, ormai non è più come nel 2013, la privacy è arrivata in prima pagina, io lo so per esperienza. Scandali come quello di Cambridge Analytica hanno portato come priorità nell'agenda setting temi che prima erano marginali, dalla privacy all'intelligenza artificiale, ai dati. Pur tuttavia sappiamo tutti che è in corso anche una battaglia di retroguardia. Allora io vorrei dire questo: ci lamentiamo spesso del fatto che la politica, che chi ci rappresenta, che i media danno delle risposte vecchie, ma noi siamo in grado di imporre domande nuove? Aaron Swartz ha iniziato come informatico, ma ha concluso la sua purtroppo breve vita come attivista, e lui si occupava anche di petizioni online. Quindi in qualche modo aveva capito che la questione del digitale, cioè la forma, era secondaria rispetto alla sostanza. Lui era innanzitutto un attivista che voleva cambiare il mondo, e infatti lui si dedicò al progetto di Mind Progress. Allora io dico: non lamentiamoci delle risposte vecchie, facciamo domande nuove di Mind Progress. Sì, buonasera, sono Giuseppe Nella. Mi fa piacere intervenire dopo Francesca, perché in qualche modo rappresenta, con anche l'intervento di Carlo, un taglio che secondo me va oltre il dato strettamente tecnosociale. E da questo punto di vista io partirei con due esempi di cosa, ad esempio, dal mio punto di vista ha rappresentato. Diciamo un esempio proprio palese di fake news, e cosa ha rappresentato invece qualcosa che va contro la narrazione corrente che si fa anche di questi argomenti. Diciamo che il titolo, cioè il rating dato a Lehman Brothers il giorno prima che fosse portassi in tribunale perché non aveva più liquidità, fatta da Wall Street Journal, è una fake news. È una fake news sistemica, nel senso che parte da un presupposto di autorevolezza che tradisce. E quindi da questo punto di vista, se noi cominciamo a capovolgere, a rovesciare il modo in cui guardiamo la produzione di informazione mainstream, che peraltro è un discorso molto vecchio, non inventiamo niente, probabilmente già lì troviamo un elemento di aggancio per poter cominciare a contronarrare, come si diceva un tempo. Cosa rompe questo meccanismo molto autoreferenziale, ma molto pericoloso in molti casi? Lo fa una sarta che sta in una metropolitana, anzi una circumvesuviana, se non ricordo, no, una metropolitana, sì, la circumvesuviana di Napoli, credo. Una sarta della RAI che praticamente, mentre vede una persona, un ragazzo che per motivi probabilmente suoi se la piglia gratuitamente con uno di queste persone, questi immigrati che fanno lavori molto sottopagati, molto difficili, e dice: la devi smettere, e poi lo chiama come merita. Cioè dice: tu non sei neanche razzista rispetto a quello che stai facendo. E poi dice quello che cos'è, che in quel momento lui era. Ed è talmente vero che anche il ragazzo dopo dice: sì, io effettivamente in quel momento ero fuori di me, non sono manco razzista, ha ragione la signora, mi scuso per quello che ho fatto. Quella è informazione, quella secondo me è informazione, è qualcosa che si stacca dal racconto in cui tutti siamo immersi e impregnati, e diventa un elemento di contrasto, diciamo, a quella che è la narrazione generale. La narrazione generale oggi è, in Italia, come tutti percepiamo, che c'è un elemento montante di razzismo, che peraltro è fomentato per motivi strettamente elettoralistici, armando soggetti che in un contesto diciamo di comunicazione diversa non si segnerebbero mai di fare delle azioni che invece si sentono autorizzati a fare. Allora, da questo punto di vista è chiaro che noi dobbiamo essere in grado di capire come anche sosteneva Carlo nell'intervento, come ha detto anche Francesco, come hanno detto molti per la verità, nella, anche l'avvocato Sarzana, negli interventi, dobbiamo cominciare a capire come si sollecita questa controinformazione attiva, che nel caso della signora diventa un intervento preciso, puntuale, in un contesto pubblico, che più pubblico non si potrebbe, per dire guardate che non siamo delle bestie, siamo delle persone, ci confrontiamo, probabilmente molte volte abbiamo opinioni che sono lontane, ma sono lontane su che cosa? Sul concetto che abbiamo ciascuno di noi del livello minimo di umanità che dobbiamo conservare rispetto alla vita che facciamo. Anche la reazione che ebbe Salvatore alla sua malattia è un elemento di reazione ad una condizione che poteva sembrare irreversibile, non lo era, cosa dimostrata che non lo era. Allora, da questo punto di vista, probabilmente noi dobbiamo essere più capaci di capire chi è il nostro interlocutore, cioè qual è la media su cui vogliamo in qualche modo incidere in termini di prospettive, sia di prospettive immediate, quindi qui ed ora, perché non sappiamo l'evoluzione delle cose, molto spesso l'evoluzione è molto negativa, perché ci sono forze che sono effettivamente potenti. Se pensate al modo in cui è stato eletto Bolsonaro in Brasile, in cui sostanzialmente i social, soprattutto WhatsApp, sono stati inondati di informazioni palesemente false, che però su un corpo sociale sfibrato, poco pronto, probabilmente anche qui, secondo Sarzana aveva ragione, anche provato da cose reali, cioè quando uno pensa che in Brasile ci sono 68.000 omicidi all'anno, 68.000 omicidi all'anno, che non penso come in Brasile sono tantissimi. Quindi se noi capiamo che ci sono anche degli elementi proprio di vita quotidiana che vanno in qualche modo focalizzati e non messi un po' da parte con uno spirito che non è probabilmente realistico, probabilmente si tolgono argomenti a chi vuole cavalcare questi fenomeni e si comincia a costruire invece un elemento di comunità che è più aderente ad un concetto di civiltà minima, non dico manco massima. Poi è chiaro che se uno in qualche modo costruisce o ricomincia a costruire l'ambiente adatto per cui le persone si sentano in sé più sicure, indipendentemente dall'approvazione altrui, probabilmente questo diventa un elemento per avere degli anticorpi più forti e più diciamo presenti, più capaci di interagire, anche per costruire il futuro. Il futuro è un po' anche quello che citava proprio Carlo rispetto proprio alla evoluzione vertiginosa delle tecnologie, che dal mio punto di vista mette nelle condizioni di un cambio di paradigma assoluto che interverrà per forza, perché questo assetto non è sostenibile. Quindi, poiché a un certo punto della storia il principio di realtà in qualche modo irrompe, per quanto il Bolsonaro, Trump o altri soggetti anche di altra estrazione teoricamente progressista possano imporre delle agende, come si dice, come dice chi parla bene, però a un certo punto la realtà irrompe e impone la sua gerarchia, che non ha che fare la parola cattiva. La gerarchia non è cattiva se è una gerarchia che si fonda su un assetto variabile. È chiaro che se io devo fare un esperimento sociale vado da Salvatore e Oriana, per dire quelli che stanno qua e che conosco, poi magari ci sono altri che di altrettanto buone, ma non lo so, quindi è un mio limite. È chiaro che quindi è una leadership variabile per me, in quella roba lì, in quella interpretazione loro sono leader, così come posso esserlo io in un altro momento, come può essere uno sconosciuto che mi dà la luce giusta in un certo momento della mia vita, che diventa un elemento di cambiamento reale o di ricentramento. Grazie. C'è qualche altro intervento, qualche altra cosa che non avete detto prima, che volete dire dopo, che non volete dire? Allora, intanto vi ringrazio per essere stati qui, per aver dedicato 2 ore a questo appuntamento. Mi piacerebbe di continuare questa cosa senza perderci di vista. Ovviamente abbiamo tutti tantissime cose da fare, quindi punteremo molto a farlo online. E poi mi piacerebbero moltissimo delle iniziative indipendenti che avessero un filo rosso conduttore, che è questo, quello che abbiamo appena sentito, perché alla fine, come abbiamo detto, ci siamo trovati, se siamo qui ci sarà un perché, come diceva qualcuno, ma sarebbe che nascessero tante iniziative. Volevo ringraziare Francesca per la messa sul tavolo dell'idea di entrare nell'università in maniera con racconto, con il video, con questa cosa. Sarebbe bello farlo dappertutto, in tutta Italia. Qui a Roma abbiamo sicuramente molta più attenzione che in altri ambiti, perché abbiamo fatto una serie di contatti in giro per l'Italia. Devo dirvi che è probabilmente il punto dove c'è maggiore attenzione, forse c'è anche come dire, una cultura digitale molto, molto diversa. Insomma, Roma sta assumendo in questi anni questa fortissima importanza tra start-up, rappresentanze internazionali, rappresentanze europee per quanto riguarda proprio il digitale, e quindi forse davvero è l'humus ideale. Non ne parla nessuno, ma io lo vedo, insomma, nel senso che abbiamo parlato di fare questa iniziativa anche in altre parti, mi hanno detto ok, ma quale tipo di sponsor è che può essere interessato a questa cosa? E a quel punto poi la telefonata si è fermata lì, per cui questa vitalità di questo territorio è davvero ogni volta mi emoziona ogni volta, per cui oltre a ringraziarvi questa cosa ci ricontattiamo. In questo periodo faremo anche probabilmente un'associazione, una struttura minima, perché per avere la sala o altro dovremo farla. Non abbiamo ancora deciso nulla, quindi non ci sono né candidati né presenti, non c'è nulla, potete farlo voi insieme a noi in qualsiasi modo, perché la struttura, ripeto, ce la dobbiamo dare. E per il 2019 abbiamo già 4 appuntamenti, abbiamo Parma, Bologna, Firenze e non c'è un altro, vabbè, ok, non importa. Abbiamo 3 appuntamenti sicuri, grazie signor Arrivo, 3 appuntamenti sicuri, mi ha fatto il segno. E quindi cominceremo questo tour e chiedo a voi una collaborazione per poterlo portare avanti. Grazie a tutti.